voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. We're all gonna go to college as virgins. You realize this, right? I mean, they probably have special dorms for people like us. Thank you. Quanta bella musica che ancora si può trovare dalle parti degli Stati Uniti, piccole etichette, gruppi agli esordi, ma soprattutto grandi canzoni, che sono quelle che a me personalmente interessano, sia per il gusto personale che anche da offrire a voi che ascoltate Eclettica. Per esempio The Low Lows, che provengono dalle parti di New York, incidono per la Monotreme Records, che invece fa di base a Londra, esordiscono con questo Fire on the Bright Sky, dal quale ci siamo ascoltati Dear Flies, Love Spider, che ha seguito lo spezzone del film di questa settimana che è American Pie. A seguire The Black Angels, The First Vietnamese War, un'altra piccola etichetta la loro, la Light in the Attic Records di Seattle. Yeah. swing to solitude I must still cling, and you won't love me every day and suffer many a display. The plates may smash and doors may slam, my corners may be less than cane, but that won't mean I've changed my mind. I'm a huffy, the best of times, I love to sulk and share and squeal, but please don't do the way I feel, 'cause when the sun burns up the earth, the progeny will raise a cannon. Here's to where it all began. And every day I hear the world that's cracking up, the end is near. I hear we all should live in fear. The flames burn flew and pass the smoke. Volcanoes, earthquakes, tidal waves, heart disease and strokes. Terrorists with homemade poisons, factions everywhere. They're drinking in the streets, they could steal your name. Dalla porta finestra aperta Owen osservava il giardino. Faceva caldo per essere giugno. Un pallido sole ardeva nel cielo senza nuvole. Gli ultimi iris appassivano e boccioli di rododendro avevano chinato il capo. Un venticello filtrava fra i maggiociondoli, trascinando un foglio del giornale domenicale sulla spalliera di rose. Il colli della signora Gills uggiolava al di là della siepe. Owen si asciugò il sudore dalla nuca con il fazzoletto. Sua sorella, Hillary, era in cucina a scegliere le fragole. Aveva quasi finito i preparativi per la cena, anche se mancava qualche ora all'arrivo di Ben. Indossava un vestito di lino beige che Owen non le aveva mai visto. I capelli sale e pepe, di solito raccolti in uno chignon, erano sciolti sulle spalle. Per essere ormai avviata ai 60, aveva un fisico esile, aggraziato. «Sei uno schianto vestita così», disse lui. «Il vino», fece lei. «Perché non apri una bottiglia di rosso?» Giusto il tempo di girare le pagine e arrivare a quella della copertina per dirvi che vi siete appena ascoltati Il principio del dolore di Adam Haslett. It's just a lie, I'm breaking words, you never talk of these. Such a lie, I took my leave and I won't. Loro sono scozzesi, incidono per Chemical Underground, un album nuovo, Man, dal quale ci siamo ascoltati Father's Eyes, ma soprattutto avranno l'onore di accompagnare i compagni di etichetta, scusate il gioco di parole, Arab Strap, in quello che sarà il loro tour di addio. E proprio gli Arab Strap ce li siamo ascoltati precedentemente da Ten Years of Tears, quella che è la loro farewell compilation con Actually There Is Goodbye. There is no ending. Stavo giocando con le copertine del disco anch'io. Ci hanno giocato loro e piace giocare anche a me con le parole. Giulio Caperdoni, che sta volgendo al termine, per quanto riguarda Eclettica, anche per questa settimana una manciata di brani alla chiusura della quarta ed ultima parte di Eclettica della settimana, e ci spostiamo a Napoli. Un gruppo che di nome fa Blessed Child Opera. Loro si definiscono indie rock folk e sono capitanati da Paolo Messere, che era stato già cantante e chitarrista di una band che faceva tutt'altri suoni, più orientati verso il noise, di nome Silken Barb, ma poi aveva suonato anche per un certo periodo all'interno degli Ulaanbaatar. Questi Blessed Child Opera, molto spesso accorciati da loro stessi in BCO, hanno già inciso due album, entrambi per la napoletana Seahorse. Ora escono con un nuovo dal titolo Happy Arc, che esce grazie alla Delta Italiana, e noi ci ascoltiamo la traccia numero 2 dal titolo Polish Me. Thank you. Anche per questa settimana siamo arrivati a quella che è la chiusura di Eclettica. Eclettica che va in onda dal martedì al venerdì, poi replicato il sabato e la domenica alle ore 22, comunque sempre disponibile in podcasting. Su myspace.com/eclettica trovate le informazioni, giulio@radiorockfm.com per averle direttamente e per iscrivervi alla lista nera. Abbiamo chiuso di nuovo con la Scozia. Queste sono tracce che mi ha mandato direttamente il gruppo all'esordio, ancora non hanno un'etichetta, si chiamano Lucky Mera e ce le siamo ascoltati con la bella voce di Laura Donnelly. Alla prossima!